dell'altra Europa. 7 minuti dopo le 12, buon sabato da Federico Taddia. Questa è l'altra Europa, il nostro appuntamento settimanale per raccontare opportunità, possibilità, storie, persone dell'Europa, di questo percorso comune tra le 28 nazioni. Le coordinate solite per trovarci anche sulle nostre piazze virtuali, euronetplus.eu, il portale del network al quale apparteniamo, oppure radio24.it, il nostro sito. Ancora chiocciola Federico Taddia, il mio account personale Twitter e Facebook, per trovare tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Oggi partiamo con un viaggio particolare, un viaggio aereo che ci porta verso un disastro europeo. Captain, just to let you know. Are you scared? No, I'm not scared. I am a bit late. 2 hours time, I'm supposed to be giving a speech in Berlin in a museum. What about? The European Union. What's that? Great England Prime Minister Nigel Farage has announced the success of the new president of France, Marine Le Pen, declared a state of emergency. Greece has unilaterally cancelled all of the country's debt. Quello che state ascoltando è il trailer di un film che avrà presentato tra pochi giorni. È un bambino che di 8 anni siede a bordo di un aeroplano e chiacchiera con un archeologo che è un esperto di quella cosa antica che si chiamava Europa. Questo è il trailer del film intitolato Il grande disastro europeo, di una coppia che già abbiamo conosciuto, la regista Annalisa Piras e il giornalista Edmund Bill Edmond, che già abbiamo conosciuto perché non sono nuovi a questo genere di film inchiesta. La provocazione a questo giro è l'Europa, ma non è tanto una provocazione, non è un tanto un'esaltazione del disastro europeo quanto un inno d'amore politico all'Europa. Con noi c'è Annalisa Piras. Ciao Annalisa, benvenuta all'altra Europa. Salve, grazie per avermi invitato. Possiamo dirlo che sei sulle piste da sci, quindi se sentiamo qualche rumore particolare è giustificato. Okay. Bene, è la prima settimana di vacanza dopo un lungo periodo di lavoro a questo film, che è stato molto molto difficile da realizzare. E raccontare la crisi dell'Europa in 90 minuti non è semplice. Certo, e attraverso quello che non è un documentario, non è un'inchiesta, non è un film, perché non è solo fiction, che genere hai utilizzato per narrare l'Europa? Ma a noi piace sperimentare un po' con i generi, quindi come abbiamo già fatto con Girlfriend in a Coma, in questo film usiamo della fiction, quindi un espediente narrativo, che è quello di un viaggio nel futuro, in un futuro in cui l'Unione Europea non esiste più, e il documentario classico, quindi ci sono 5 storie in 5 paesi europei che sono reportage documentaristici. E poi ci sono gli strumenti più classici del giornalismo d'inchiesta, quindi dati, interviste con esperti di alto livello e rappresentazioni grafiche dei dati dell'Europa di oggi. Uh-huh. Annalisa, ma è un atto d'amore o è una pietra tombale nei confronti dell'Europa? Ma è un atto di amore spassionato. Il film prende una posizione molto netta, molto chiara. È un film che non vuole essere imparziale, è un film che dichiara che stiamo distruggendo l'Europa e ce ne dobbiamo rendere conto il prima possibile, perché se non ci rendiamo conto di che cosa stiamo per perdere, forse non lo avremo mai più. Uno dei motti del film è che ci rendiamo conto di quel che abbiamo solo quando l'abbiamo perso, e per questo il film va nel futuro, in un futuro senza l'Unione Europea, che assomiglia molto al nostro passato. Il film si ispira anche un po' alla tesi famosa del libro di Christopher Clark, questo storico che ha scritto Sleepwalker, cioè Sonnambuli, e che paragona l'epoca che stiamo vivendo a quella che 100 anni fa portò quasi in modo da sonnambuli alla Grande Guerra. Uh-huh. E il film è stato proiettato in anteprima il 23 gennaio, il 1 marzo su BBC4 andrà in onda. Quali sono state le prime reazioni? Le prime reazioni sono state molto molto incoraggianti, perché abbiamo fatto la prima al Frontline Club, un famoso club di giornalisti di Londra, e abbiamo fatto il dibattito dopo il film. Si è scatenato un putiferio, perché il film vuole scatenare il dibattito, non penso di avere delle risposte, ma vuole che il dibattito sull'Europa diventi più profondo, più informato, più consapevole dei rischi che corriamo. Quindi c'è stato un bellissimo, una bellissima baraonda di chi era a favore e chi era contrario, e noi speriamo che il film susciti un dibattito molto ampio in Europa. La cosa bella è che uno dei primi film documentari sull'Europa che sarà trasmesso quasi in simultanea in tantissimi paesi europei, e quindi ci auguriamo e auspichiamo che inneschi un dibattito paneuropeo, perché ce n'è bisogno. Propone anche delle soluzioni, delle vie d'uscita? Sì, il film non vuole essere solo negativo in questo futuro distopico senza Unione Europea, e indica alcune possibili vie d'uscita, che non nomino perché certo, sarà importante per gli spettatori e scoprirle nel corso del film, però no, è un atto d'amore, è una tesi molto forte che vorrebbe spingere le persone a capire che anche se questa unione è imperfetta, è sicuramente meglio dell'alternativa di tornare al passato, e quindi vuole spronare un po' tutti a ragionare e impegnarsi a vedere come possiamo riformare questa Europa per salvarla. E The Great European Disaster Movie.eu, oltre ad essere il titolo del film, è anche il sito, c'è anche una pagina Facebook da dove poter intanto guardare in anteprima il trailer. Grazie davvero ad Annalisa Piras, in bocca al lupo a te, un grazie anche a Bill Hammett per questo bel lavoro che fa pensare, un lavoro che stimola ragionamenti sull'Europa, quindi a prescindere un qualcosa di utile. Grazie, ciao, buona giornata. Grazie anche a voi. Noi ci fermiamo un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Tirocini presso la Fondazione Europea per il miglioramento delle condizioni di vita e lavoro. Siete giovani laureati desiderosi di fare un'esperienza all'estero nel campo delle politiche sociali e del welfare? L'Agenzia dell'Unione Europea, Eurofound, è alla ricerca di tirocinanti che saranno impegnati in un'esperienza lavorativa della durata di 6 mesi presso gli uffici della Fondazione a Dublino. Oltre alla laurea, i candidati devono possedere una buona conoscenza di almeno un'altra lingua europea diversa dalla propria. Per tutte le informazioni, collegatevi al sito eurofound.europa.eu nella sezione Career Opportunities. Ma affrettatevi, c'è tempo fino al 27 febbraio. L'altra Europa. Come bussola, Human Rights Education for Youth, un campo, una settimana di lavoro che si sta tenendo a Losi, San Giovanni Battista. Siamo in Puglia, siamo vicino a Fasano, e proprio a Fasano si trova ASAP Europe, è un'associazione per la mobilità internazionale ed è capofila di questo corso di formazione finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Erasmus Plus, e si parla appunto di diritti, lo si fa in chiave europea, lo si fa attraverso quelle che sono le pratiche dell'educazione informale, del role playing, della commistione tra ragazzi, giovani. Infatti i partecipanti arrivano da 8 nazioni, che sono Italia, Lituania, Lettonia, Polonia, Grecia, Macedonia, Inghilterra e Romania. Con noi c'è il presidente dell'associazione ASA Europe, diamile benvenuta a Francesco Palazzo. Ciao Francesco. Sì, ciao. Allora, cosa ciao state... a tutti, buongiorno. Qual è il clima di queste giornate? Cosa sta accadendo lì appunto presso l'OASI? Allora, innanzitutto grazie, ecco, per averci contattato. Hai già detto tutto riguardo a una presentazione del corso. Il clima c'è molto entusiasmo, ci sono 24-25 ragazzi. Sì. Le 8 nazioni che hai appena accennato. E, insomma, sono 4 attività durante la giornata. Si tratta di educazione non formale, come stavi dicendo, educazione non formale che riguarda una serie poi di attività che noi facciamo anche in base alla possibilità, ecco, poi di utilizzare una serie di posti dove implementare queste attività anche all'esterno. Francesco, i partecipanti sono ragazzi, appunto, che provengono da tutte queste nazioni, ma cosa sono? Educatori, formatori? Esattamente, il termine esatto è youth worker. In italiano non c'è un equivalente, si parla di operatori giovanili, però lo youth worker sarebbe colui che lavora con e per i giovani. Ho capito. Questo, sempre tramite questo tipo di attività che ti dicevo, sono attività di educazione non formale, che è una cosa su cui io stresso magari molto, perché comunque per fortuna non utilizziamo, diciamo, attività quali conferenze in cui potenzialmente la gente si annoia, è molto più interattiva come metodologia. Certo, e leggevo che uno degli obiettivi è la conoscenza di questo manuale Compass del Consiglio, sì, d'Europa. Di cosa si tratta? Sì, allora, il Compass è un manuale che poi è stato pubblicato, appunto, dal Consiglio d'Europa, che prevede, appunto, una serie di attività, diciamo la nostra Bibbia per chi lavora nell'ambiente. Sono una serie di attività in cui c'è scritto tutto, dal materiale che tu devi che bisogna utilizzare durante questo tipo di workshop, esercizi e anche giochi, ecco, per coinvolgere i ragazzi, per poi riuscire a trattare dei temi che sono di respiro internazionale, temi ecco, anche molto sensibili, che poi riguardano sempre l'ambiente dei diritti umani, però ripeto, in una maniera particolare, una maniera interattiva, in una maniera che coinvolge i ragazzi e che poi porta, l'obiettivo principale, ecco qual è, porta a una discussione finale e una condivisione delle opinioni in base poi al background e alle esperienze di ognuno, che comunque sono diverse, credimi. Ecco, insomma, si arriva a parlare di uguaglianza di genere piuttosto che di religione con ragazzi che hanno un passato completamente diverso dal tuo. Certo. Questo è l'obiettivo principale. asapeurope.eu, il sito ufficiale della vostra associazione, c'è anche la pagina Facebook dove sono postate, caricate sia foto che video. Un'ultima domanda, Francesco, sì, voi come, sì, associazione siete relativamente giovani, siete nati nell'ottobre, sì, del 2012, sì, siamo a Fasano, siamo in provincia, sì, di Brindisi. Cosa significa parlare di Europa da lì? Ecco, che bella domanda. Allora, noi siamo nati come gruppo informale. Sì. Gruppo informale che poi noi abbiamo questa grande fortuna di essere, di provenire da questa grande regione che è la Puglia, che dà a disposizione, che mette a disposizione dei giovani tanto. Quindi le politiche giovanili qui in Puglia sono all'avanguardia e grazie a questo abbiamo vinto poi questo finanziamento al principio della nostra attività nel 2012, che si chiama Principi Attivi 2012, sì, Giovane Idee per una Puglia Migliore, che ci ha dato l'opportunità di iniziare a parlare di quello che noi già facevamo all'estero, come partecipanti, come formatori, come facilitatori, ecco, per portarlo qui in una realtà che alla fine è una realtà di 40.000 persone. Un po' digiuna di esperienze europee, di esperienze internazionali, però ecco, tutta questa commistione di esperienza da parte nostra a livello internazionale, opportunità date dalla regione, in particolare dalle politiche giovanili, sì, hanno portato, ecco, a iniziare questo percorso che devo dire è entusiasmante e che sta portando una serie di buoni frutti. Ecco, questa è l'Europa delle opportunità e delle possibilità che ci piace raccontare. Sì, ASAP, dico giusto questa cosa, ecco, anche il nome dell'associazione partiva in questa maniera. As soon as possible significa il più presto possibile, quindi l'obiettivo era quello di raggiungere l'Europa da una piccola città che è quella di Fasano, ed ecco, ci stiamo riuscendo. Perfetto, grazie davvero Francesco Palazzo, grazie a te e a tutto il tuo team. ASAPEurope.eu. Europostit. Capitale europea della gioventù 2018. È aperta la corsa per diventare capitale europea della gioventù nel 2018. Il Forum europeo della gioventù invita ufficialmente tutte le città dell'Unione a candidarsi per il titolo che dà l'opportunità di mostrare per un anno il proprio sviluppo culturale, sociale ed economico a favore dei giovani. Ogni comune può diventare capitale se è in grado di distinguersi in maniera positiva e di prevedere un ambizioso programma per il rafforzamento dei giovani. Per concorrere è necessario presentare le bozze di concetto entro e non oltre il 28 febbraio. Per ulteriori informazioni, europeanyouthcapital.org. Con questa allegra canzone del cibo diamo il benvenuto al prossimo ospite, procuratore di idrodepurazione. Stiamo parlando di una società di ingegneria d'ambiente di Seregno, siamo quindi in provincia di Milano, se non erro. Milano, adesso glielo chiediamo. E diamo il benvenuto a Eleonora Benedetti. Ciao Eleonora, buon sabato. Ciao, buongiorno. È Milano la provincia? Monte Brianza. Ok, perfetto, infatti mi è venuto il dubbio. Da poco, eravamo provincia di Milano, da poco diventata. Allora Eleonora, nel nostro programma raccontiamo anche storie di eccellenza che hanno delle eco molto belle in chiave europea, e la vostra è una di queste, grazie a un prestigioso progetto che si chiama EuroPHA, che ha lo scopo di ricercare nuove tecnologie in grado di ridurre i costi di produzione. Stiamo parlando di bioplastiche, e con la vostra ditta siete prossimi a giungere a Bruxelles proprio per parlare di quello che avete ottenuto, di quello che avete inventato. Raccontaci, facci capire. Sì, allora, lo scopo di questo progetto, che appunto come hai detto si chiama EuroPHA, e che rientra all'interno di un progetto di ricerca del 7° programma quadro della Comunità Europea, è quello di ridurre i costi del 40% delle bioplastiche, che sono plastiche biodegradabili al 100%. Quindi diciamo l'obiettivo è quello di avere delle bioplastiche più economiche e poi aumentarne la loro diffusione e sostituzione alle plastiche prodotte da idrocarburi, che sono quelle più diffuse. Quindi il scopo ultimo è quello di ridurre l'impatto ambientale. Certo. Diffondendo queste bioplastiche. Cosa intendiamo per bioplastica, proprio per capirci? Plastiche che derivano, allora, biodegradabili al 100%, che derivano da materie di origine alimentare, ecco, non da idrocarburi, non dal petrolio. Perfetto. Mm-hmm. E quindi utilizzato con un processo di trasformazione naturale. Okay. Quindi questo progetto si propone di raggiungere questo obiettivo, da un lato individuando delle materie prime a basso costo, quindi adesso queste bioplastiche già esistono, ma il loro problema è che hanno dei costi elevati perché derivano da materie prime costose. Il fatto di poter raggiungere queste bioplastiche da materie di scarto ridurrebbe indubbiamente il costo e toglierebbe il costo di smaltimento degli scarti. Questi scarti che noi andiamo a studiare sono scarti di origine agroalimentare, come per esempio la polpa zuccherina della frutta, piuttosto che i succhi di frutta, piuttosto che scarti dei reflui della birra, per esempio, tutto derivante dall'industria alimentare. Da un lato quindi individuare delle materie prime a basso costo, dall'altro individuare un processo di trasformazione di queste materie prime che sia economico, quindi che vada a costare poco. Questo obiettivo che ci, noi stiamo lavorando non da soli a questo progetto, ma insieme ad altre 8 realtà europee, siamo quindi in 9 a partecipare. Ci sono tra queste 9 delle associazioni di categoria, degli istituti di ricerca e delle piccole e medie imprese, quindi ognuno con il suo contributo. Nelle associazioni di categoria partecipa la Spagna, il Regno Unito e la Francia. All'interno di queste associazioni di categoria ci sono le federazioni cooperative agricole e federazioni della plastica. Cioè, Eleonora, qual è il valore aggiunto che portate voi e cosa rappresenta per voi l'Europa in questo momento? Certo, allora noi portiamo a questo progetto la nostra esperienza relativa al... noi siamo esperti negli impianti, e quindi portiamo l'ingegneria relativa alla trasformazione di queste materie, quindi facciamo impianti di digestione e la digestione, in questo digestione anaerobica, è il processo che può aiutare in questo progetto la trasformazione delle materie prime. Sicuramente per noi la partecipazione a questo progetto significa crescita, condivisione con le altre realtà e quindi scambio di esperienza e di informazione, insomma, crescita sostanzialmente, indubbiamente. In bocca al lupo, avete un appuntamento importante, vero, nelle prossime settimane? Alla metà di marzo, dovremo andare a Bruxelles per rendicontare questo primo anno di lavoro. Insomma, quindi è già un primo step per capire cosa si è fatto e cosa rimane da fare. Europa è scritto ph.eu, esatto, è il sito del progetto per conoscere. Ph.eu, esattamente. Perfetto. Sono tutte le informazioni in più dettaglio. Grazie davvero, Eleonora, in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie a voi. Europost-it. European Vegetable Strategies 2015. Quali piani intraprendere per migliorare la situazione dell'ortofrutticolo? I trasformati e l'aspetto salutare sono le ancore di salvezza del settore? Questi alcuni dei temi affrontati durante il congresso European Vegetable Strategies 2015 che si terrà a Bruxelles il 6 e il 7 maggio. L'obiettivo della conferenza per professionisti dell'ortofrutta è quello di indagare su nuove strategie per aumentare la domanda di frutta e verdura fresca in Europa. Tutte le informazioni e i biglietti in vendita collegandosi al sito vegetablecongress.com. L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, radio24.it, Federico Taddia sui social, Facebook e Twitter, ancora mezz'ora insieme per parlare dell'Europa come ci piace farlo, quindi attraverso le storie, attraverso le persone. Con noi adesso Giovanni Allevi, lo stiamo rintracciando, ascoltiamo ancora un po' della sua musica, poi parliamo con lui del suo nuovo tour europeo che parte proprio questa settimana. Mentre continuiamo ad aspettare Giovanni Allevi, questo è anche il bello della diretta, ci stiamo un po' incartando con le linee, che c'è la linea occupata, continua a cadere, mi dicono dall'altra parte del vetro, e aspetto segnali. Perfetto, intanto che aspettiamo Giovanni cambiamo argomento e diamo il benvenuto a Mauro Lazzari dell'associazione LUA, Laboratorio Urbano Aperto. Ciao Mauro, benvenuto all'Altra Europa. Salve, buongiorno a tutti. Buongiorno a te, scusaci per così ti abbiamo buttato dentro senza preavviso. Allora, Mauro, tu fai parte di questa associazione che vive dei protagonisti per una sfida verde europea. Sto parlando del premio del paesaggio del Consiglio d'Europa, al quale voi partecipate con la vostra esperienza del parco Padoli o Paduli? Paduli. Paduli, allora partiamo da questo. Che cos'è il Parco Paduli? Ma il Parco Paduli è un lavoro collettivo nato attraverso un processo di partecipazione che ha coinvolto 10 comuni, le associazioni di un'area salentina che si trova tra il Mar Ionio e il Mar Adriatico, che è frapposta insomma quindi fra i due mari. Si tratta di un immenso bosco lipetato, circa 5.500 ettari di ulivi secolari, che un tempo erano diciamo utilizzati soprattutto per la produzione di olio lampante, un olio combustibile che partiva dai porti di Gallipoli e raggiungeva le capitali europee proprio per l'illuminazione pubblica. Questa idea nata nel 2003 è stata una sfida che il LUA ha qualche modo intrapreso proprio nel periodo in cui eravamo anche fuori dal nostro territorio e svolgevamo i nostri percorsi diciamo formativi all'interno dell'università. Sì. E in qualche modo siamo tornati nel nostro territorio sperimentando un nuovo processo in cui volevamo coinvolgere più persone per avere una visione diciamo quanto più ampio possibile del nostro territorio, e lo abbiamo fatto coinvolgendo appunto abitanti e amministrazioni pubbliche e cercando di costruire con loro un percorso per andare a valorizzare un'area che quando abbiamo iniziato noi il laboratorio nel 2003 non era così diciamo riconosciuta come oggi. E attraverso questo lungo processo appunto di coinvolgimento, in cui l'attività creativa è stato uno degli elementi, degli strumenti diciamo più importanti per dare parola, no? Anche a quelle persone che solitamente non sono abituate ad essere coinvolte nei processi decisionali, siamo riusciti a diventare un'occasione all'interno della quale anche coinvolgendo appunto enti regionali siamo riusciti così a costruire questa idea di un parco agricolo multifunzionale all'interno di quest'area olivetata. Ecco, e quindi un'esperienza importante, un'esperienza local, però con ripercussioni territoriali rilevanti, sono quelle iniziative che poi creano indotto, stimolano nuove contaminazioni, fanno rete, ecco, sul territorio, che sono tutte cose fondamentali per risvegliare ambiti della nostra economia anche. Tutto ciò è stato scelto per partecipare a questo premio, che è un premio prestigiosissimo. Esatto, in realtà quando ci siamo candidati non pensavamo assolutamente di essere scelti a rappresentare l'Italia in questo importante concorso. In realtà l'intenzione era quella di portare a conoscenza l'esistenza di questa importante esperienza, perché pensavamo che potesse in qualche modo costruire e dare un apporto, no, alle nuove metodologie di valorizzazione del paesaggio. Non ti nascondo che comunque delle piccole gratificazioni durante questo lungo percorso durato 10 anni l'avevamo già raggiunte nel momento in cui questo progetto nato dal basso è diventato progetto pilota del nuovo piano paesaggistico, e successivamente anche tutta una serie di altre gratificazioni legate a tante attività che noi svolgiamo all'interno, dalla produzione dell'olio extravergine d'oliva attraverso la gestione di 500 alberi che abbiamo incomodato d'uso, alla sperimentazione di un'ospitalità diffusa, e in particolare con la sperimentazione dell'albergo biodegradabile, cioè in cui noi recuperiamo tutto ciò che sono i rifiuti, no, dell'attività agricola, e in un particolare periodo dell'anno organizziamo un concorso internazionale, un workshop di autocostruzione in cui costruiamo questi rifugi attraverso proprio l'utilizzo dei materiali di risulta dell'agricoltura, che poi andiamo a utilizzare come albergo nel periodo di più miti. Fantastico. Come giugno, luglio. Fantastico. In cui creiamo Mauro, scusa Mauro, che insomma il tempo è quasi scaduto. Ci dai un sito internet per conoscere tutto ciò che fate? Sì, parcopaduli.it e abitaripaduli.com. Perfetto. Premio paesaggio.beniculturali.it invece è il sito del premio per chi volesse maggiori informazioni. In bocca al lupo Mauro per il concorso, per il premio e non solo. Buon lavoro. Ciao. Grazie. Adesso ci fermiamo un post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi Giovanni Allevi che lo abbiamo trovato. Europost-it. Concorso fotografico Unione Europea, amore senza confini. Avete una storia d'amore da condividere? Volete dimostrare che il romanticismo può superare ogni ostacolo e confine europeo, sia esso culturale, politico, linguistico, geografico, logistico? You Love Without Borders è il concorso fotografico lanciato dall'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'Unione Europea che fa il caso vostro. Per partecipare è necessario essere maggiorenni e inviare il proprio scatto con una piccola descrizione di massimo 100 parole all'indirizzo email regio-eulwb-competition@ec.europa.eu entro il 15 marzo. Le votazioni avverranno tra il 20 marzo e il 3 aprile sulla pagina Facebook ufficiale di Europe in My Region. La coppia vincitrice sarà annunciata il 9 maggio, il giorno della festa dell'Europa. L'altra Europa. Il 27 febbraio a Londra, il 28 febbraio a Bruxelles, il 1 marzo a Parigi, il 5 marzo a Zurigo, il 7 marzo a Berna, il 9 a Barcellona, infine il 15 a Lugano. Queste sono le date del Giovanni Allevi Love Piano Solo Tour 2015 in versione europea e siamo ben felici di avere qua con noi Giovanni Allevi. Ciao Giovanni, buon Ciao, sabato. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Grazie a te. Beh, insomma Giovanni, per te che sei abituato a viaggiare tutto il mondo, non credo sia un'emozione particolare quella di andare in Europa, anche se nello stesso tempo credo che sia gioia vera poter comunicare con questa lingua, con questo linguaggio che è la musica, anche al di là dei confini. Sì, e questo è un fatto entusiasmante della musica strumentale, cioè della possibilità di poter comunicare in profondità con l'anima di un ascoltatore che non conosci, indipendentemente dai limiti e dei confini geografici anche della lingua. Io sono in fibrillazione all'idea di potermi avventurare in questo nuovo percorso di love. E tra l'altro, Giovanni, è facile parlare, cantare, suonare l'amore in questo particolare periodo storico? È molto impegnativo, però credo che sia un dovere, perché proprio in questo momento in cui l'odio sembra prendere il sopravvento per delle motivazioni puramente ideologiche, mi piacerebbe che noi ci liberassimo di tutte le verità in tasca, di tutte le sovrastrutture, per riscoprire il nostro essere misterioso, inconoscibile, e quindi poter amare l'altro indipendentemente dalla sua diversità. Uh-huh. Ecco, io credo che sia questo un dovere. E questo palco che si chiama Europa, per te, al di là del piacere, al di là della responsabilità musicale, cioè, per te l'Europa cos'è? Comunque un qualcosa di grande, un qualcosa di impalpabile, è un qualcosa di effimero, o è un qualcosa che anche nella tua quotidianità comunque vivi? Ma io credo, anzi sono convinto, che l'Europa rappresenti da un punto di vista culturale una parte del nostro DNA. Non saremmo noi oggi se non avessimo Beethoven e Chopin alle nostre spalle, Franz Liszt e i grandissimi compositori che hanno costituito l'elemento connettivo e culturale del nostro modo di essere, del nostro modo di sentire. Certo, dobbiamo anche iniziare a porci nell'ottica che questo europacentrismo a livello mondiale non credo che abbia più un grande senso. Quindi mi piace l'idea di essere cittadini del mondo ed anche il fatto che in particolare gli italiani hanno come obiettivo quello di fare innamorare il mondo di sé. Londra e Bruxelles, le prime due tappe, insomma, tappe toste. Sì, ma io non ho mai fatto questione del prestigio e dell'importanza del luogo, perché sono convinto che non ci sia luogo più prestigioso e raggiungibile nel cuore dell'ascoltatore, indipendentemente da dove mi trovo. E poi comunque volevo rassicurare, rassicurazione volevo dire al pubblico che dopo il tour europeo ci sarà il tour italiano, certo. E poi anche quello giapponese, quindi tornerò qua, insomma. Mi ricordo, credo di averti una volta ci siamo incontrati proprio in stazione a Milano, che forse eri appena tornato dal tour giapponese. Ricordo 40 di febbre e valigie grandissime, perché poi è il bello di uno dice che bella vita, comoda. Invece mi ricordo quel frammento, forse era un sabato mattina, appunto, che non so se hai memoria di quello strano incontro. Ma sì, ti dico, anche perché noi ci incontriamo sempre nei momenti più strani. Però è bello, insomma, siamo sempre in movimento. Siamo sempre in movimento. Se tu mi raccontassi di una casa ecologica fatta con materiali super innovativi, che bello. È vero, avevi la febbre alta, ma eri attento. Giovanni, ma ti diverti ancora quando sei con quel pianoforte a suonare? Sì. Io non mi sono mai divertito, perché suonare il pianoforte è difficile. Ci sono 10 dita contro 88 tasti, e questa mi sembra già una sproporzione. E poi, ecco, lì metti in gioco la tua vita, la tua anima. Quindi non è propriamente un'attività divertente, ma è un moto viscerale quello che mi porta davanti al pianoforte. Allora, ricordiamo ancora, 27 febbraio a Londra fino al 15 marzo in giro per l'Europa, poi dal 27 marzo di nuovo in Italia con l'Auditorium Conciliazione di Roma, poi Napoli, Milano, Livorno, Padova, dopo fino ad aprile a Genova, veramente un giro d'Italia di piano in piano. E Giovanni, ti saluto con un pezzo che hai dedicato a un tuo asteroide, hai un asteroide in cielo che porta il tuo nome? Sì. Può sembrare assurdo, infatti ancora non riesco a crederci, ma la NASA, l'Agenzia Spaziale Americana, mi ha dedicato un asteroide che si chiama Giovanni Allevi 111561 e che è in orbita tra Giove e Marte. E io immagino rigoglioso di natura, come fosse ricoperto da una giungla, dove vorrei rifugiarmi lontano dai problemi. In bocca al lupo per il tour, grazie davvero a Giovanni Allevi per questa chiacchierata, è sempre un vero piacere. Ciao Giovanni, grazie. Grazie, grazie Federico, un saluto affettuoso a tutti i radioascoltatori. Ciao, ciao a tutti. Buon sabato, ciao. E con queste note di Giovanni Allevi chiudiamo questa puntata dell'Altra Europa. Vi ricordo, tutto ciò lo potete riascoltare in podcast dal nostro sito www.radio24.it. Lì potete riascoltare i post-it, lì potete anche inviarci mail con idee, suggerimenti, dritte e critiche. L'indirizzo lo conoscete. L'Altra Europa, @radio24.it. Un grazie a tutta la squadra, Paolo Corleoni e Claudia Schiattone, oggi in assistenza, Miriam Lucchetti e Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata. L'appuntamento come sempre a sabato prossimo, domani mattina come sempre invece verso le 11.45 col crowdfunding all'interno di Si Può Fare. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.